Con Giulietta Fara, direttrice artistica del Future Film Festival, parliamo un pochino di questa 22esima edizione di un festival che è di fatto una permanente lente di ingrandimento su nuovi linguaggi di arte e di tecnologia. Future Film Festival quest'anno ha un tema molto forte, che è il tema del retrofuturo, un tema che coinvolge sicuramente una visione della fantascienza degli anni 70 e 80. Verranno presentate alcune pietre miliari come Akira di Otomo Katsushiro, piuttosto che il festeggiamento dei 40 anni della pellicola di Blade Runner Final Cut in collaborazione con Warner Bros. E ancora una specialità, Delta Space Mission, un film rumeno, il primo film rumeno di animazione restaurato in 4K in anteprima italiana al festival, uno psycho thriller imperdibile, e Star Crash, un film italiano della fine degli anni 70, 1979, che sarà presentato proprio da Luigi Cozzi, il regista che all'epoca lo fece sull'onda del successo ovviamente americano di Star Wars. Infatti ho visto non ci sono solo cortometraggi, ma c'è una particolare attenzione quest'anno anche ai lungometraggi. Sì, il festival quest'anno presenta un concorso lungometraggi particolarmente corposo, sono tanti e provenienti da tutto il mondo, alcuni anche in anteprima assoluta, come il film italiano e anzi locale, diciamo, perché è realizzato e coprodotto anche dalla Emilia Romagna Film Commission, che è appunto Metamorphosis di Michele Fasano, di cui faremo un'anteprima assoluta il 24 settembre. Molto estesa territorialmente anche la collaborazione con l'estero. Sì, ci teniamo molto a promuovere il festival all'estero, questo da sempre, dal 1999, infatti il festival è sicuramente più conosciuto all'estero che in Italia, questa è una delle cose più strane che succedono a volte nel nostro paese. Il festival presenta opere cinesi, di Taiwan, giapponesi, rumene anche contemporanee, africane, italiane, europee, quindi anche francesi, inglesi, opere provenienti dalla Danimarca e opere americane. Parliamo un attimo, un accenno alla collaborazione col Festival di Kiev. È stato proprio il Linoleum Festival a contattarci per creare una collaborazione speciale con loro. Il Festival di Kiev è un festival di cinema d'animazione e di arte, si svolge ogni anno all'inizio di settembre, quindi la loro edizione è appena finita. Ci hanno contattato per creare una collaborazione, anche una sinergia e un sostegno economico, perché come sappiamo quando ci sono le guerre la cultura soffre per tanti motivi, ma anche proprio per quello economico, perché i contributi alla cultura non esistono proprio più. E quindi il Festival di Bologna, il nostro, il Future Film Festival, ospiterà una selezione di corti e la direttrice del Festival Linoleum, che arriverà da Kiev appositamente, e il Future Film Festival ha presentato lì alcuni corti e si è impegnato, diciamo, a doppiare e a sottotitolare alcuni film per loro. Chiudiamo con un accenno a una bellissima iniziativa, quella dei laboratori di cinema per bambini. Sì, il festival ha questa collaborazione storica con la Casa delle Arti e del Gioco di Mario Lodi, del quale tra l'altro al festival celebriamo i 100 anni dalla nascita e al quale dedichiamo una speciale carta bianca in collaborazione con Carlo Ridolfi, che è un po', diciamo, la persona che ha seguito più da vicino Mario Lodi nel suo lavoro negli ultimi anni legato al cinema e all'immaginario audiovisivo. Il festival propone dei laboratori per bambini, appunto, in cui i bambini devono fare il cinema. Quindi saranno invitati a produrre robot, ma anche astronavi, ma anche altre animazioni, sia in stop motion, sia con altre tecniche, e anche a sonorizzare cartoni animati grazie alla nuova collaborazione con la scuola di musica CEMI. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi.